il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La parola frontman, lo sappiamo, sta a indicare il componente di un gruppo musicale che risulta più in vista. Frontman di solito è il cantante, l'autore del gruppo, anche se ci sono state delle band tipo i Beatles che in realtà un frontman vero e proprio non l'avevano, però insomma in genere quello che sta davanti e si becca più fotografie e più fan c'è Mick Jagger, Freddie Mercury, Peter Gabriel, Bono, Jim Morrison, insomma potrei andare avanti per una puntata intera. Front woman sarebbe la donna che sta davanti, e qui la cosa si complica perché sono molto meno le donne leader di una band. Mi vengono in mente recentemente Skin, Chrissy Hynde dei Pretenders, Siouxsie and the Banshees, e poi poche altre, Polistirene negli X-Ray Specs, Nico nei Velvet Underground, ma in realtà lì c'erano Lou Reed e John Cale, insomma. Bene, la nostra puntata di oggi è dedicata alla front woman per eccellenza, quella che ha rappresentato l'immagine di una band, un'immagine bellissima tra l'altro, dichiaro pubblicamente di essere stato innamorato di lei follemente, ma è stata anche un elemento di coesione all'interno del suo gruppo. Insomma, oggi raccontiamo la storia di Debbie Harry, la front woman dei Blondie, la mitica band degli anni 70-80, attiva ancora oggi, esponente di spicco della new wave statunitense, fondamentale nella scena punk di quegli anni. Il fatto stesso che la band abbia deciso di chiamarsi Blondie, che era un chiaro riferimento a Debbie e alla sua capigliatura, è il primo e inequivocabile segnale dell'influenza che la cantante ha avuto e ha all'interno della band. Ascoltate cosa dichiarano i componenti maschi, poi li citeremo tutti, quando hanno appena raggiunto il grande successo e vengono intervistati. È il 78, parlano proprio di questo argomento. What are your own personal feelings about the amount of publicity that Deborah is getting? Che ne pensate della grande pubblicità che sta ottenendo Deborah rispetto al resto della band? Insomma, la stampa parla di Deborah Harry e i Blondie. I'm a songwriter in the band. Beh, io ad esempio scrivo le canzoni della band. Tutti noi facciamo la nostra parte. Ovviamente tutti voi contribuite con il vostro ruolo, ma per quello che riguarda l'immagine, Deborah sta avendo una grande spinta. Beh, è ovvio, lei è il nostro Mick Jagger. Sicuramente lei è più riconoscibile e ci sta meglio di noi sulle magliette. Eh sì, bisogna dire che i Blondie sono sempre stati molto intelligenti, perché hanno capito perfettamente che al di là delle grandi canzoni che scrivevano, un'immagine come quella di Debbie Harry è un'immagine che non puoi lasciare perdere. Lei era veramente la donna di quel periodo, bellissima, considerata la sosia di Marilyn Monroe, addirittura si era sparsa una leggenda che lei fosse la figlia di Marilyn Monroe, e in realtà aveva un look personalissimo, riconoscibile. Molte dopo di lei, da Madonna a Lady Gaga, hanno dichiarato di aver preso ispirazione dal suo look. Insomma, un personaggio che ha fatto storia in un modo o nell'altro. Deborah Ann Harry nasce, per meglio dire, decide di venire a regalarci la sua bellezza in Florida il 1 luglio 1945. Il vero nome è Angela Tremble, viene abbandonata dalla madre biologica, da qui la leggenda su Marilyn Monroe, adottata a 3 mesi dai coniugi Richard e Catherine Harry, proprietari di un negozio di souvenir a Hawthorne nel New Jersey. E lei diventa una bellissima ragazza subito. Nel 63 vince il concorso di reginetta della scuola, volevo ben vedere. A 20 anni va a vivere a New York, prima fa l'estetista, la cameriera e poi diventa coniglietta del club Playboy. Però lei piace anche cantare, scrive canzoni, frequenta locali dove si esibiscono gruppi emergenti, e lì soprattutto c'è un locale che si chiama il Max Kansas City, c'è anche un un album che si chiama così, perché lì ci passano tutti. E qui conosce un gruppo, si chiama Wind in the Willows, inizia a cantare con loro, addirittura incide un disco, siamo nel 1968, non è ancora ora di assaporare i venti del punk. Poi c'è il primo colpetto d'ala, diciamo, entra a far parte degli Stilettos, è un gruppo tra il cabaret e la musica rock, esibizioni stranissime, lei indossa abiti succinti, grandi croci, insomma comincia a anticipare l'avvento del punk, attira l'attenzione degli addetti ai lavori, la sua personalità e il suo stile sono già ben riconoscibili. E attira l'attenzione di tutti, ovviamente, ma anche di un personaggio particolare. È qualcosa di difficile da spiegare. Come puoi spiegare una connessione psichica? È impossibile. È stata una specie di affinità. Sì, c'era qualcosa. Era facile, magnificamente facile, rapportarmi a questo uomo del tutto estraneo che stava tra il pubblico. Beh, ha anche degli occhi molto belli. Ecco perché metto sempre gli occhiali scuri. That's why I wear these. Il proprietario di quegli occhi che piacciono tanto a Debbie Harry si chiama Chris Stein, è un grandissimo chitarrista, compositore statunitense, rappresenta l'incontro della vita di Debbie Harry, un incontro destinato a cambiare per sempre le loro esistenze. Il falco e il gabbiano. Chris Stein, grande chitarrista che nel 73 entra nella formazione degli Stilettos, la cui cantante è Deborah Harry. E qua Dio decide di mettere la mano sulla testa di Chris Stein perché lo sceglie perché Debbie Harry si innamora di lui. Iniziano una collaborazione professionale che durerà anche ben oltre la loro relazione sentimentale, perché si lasceranno nell'89 dopo 15 anni, ma ancora oggi collaborano e si definiscono migliori amici. Nel 74 Debbie e Chris lasciano gli Stilettos, fondano una loro band, all'inizio si chiamano Angel and the Snake e poi Blondie and the Banzai Babies, ma nel 75 si rinominano solo Blondie, in omaggio alla capigliatura bionda, la presenza scenica, la carica espressiva di Debbie Harry. Insieme a loro ci sono Bill O'Connor alla batteria, Fred Smith al basso, e poi ci sono cambi di formazione che si assesta con l'arrivo di Clem Burke alla batteria, Gary Valentine al basso e Jimmy Destri alle tastiere. Loro suonano regolarmente al Max Kansas City e al CBGB, i due locali chiave del punk newyorkese e di Los Angeles. Nel 76 arriva il primo album dei Blondie, che si chiama Blondie, e viene accolto dalla critica con grande favore, promosso da un singolo, X Offender, ma all'interno di questo album è presente una canzone, In the Flesh, che inaspettatamente entra nella top 10 in Australia. E i riflettori cominciano a puntarsi sui Blondie, e nel 77 due personaggi di un certo livello, Iggy Pop e David Bowie, li ingaggiano per lo Idiot Tour. È un tour particolare in cui Iggy Pop canta e David Bowie suona le tastiere. E qui le quotazioni salgono vertiginosamente perché cominciano a girare Stati Uniti, Canada, e il loro secondo album, Plastic Letters, che esce nel 78, ha un singolo che si chiama Dennis. Questo singolo ha un successo incredibile, soprattutto in Gran Bretagna, e fa dei Blondie il primo, comunque uno dei primissimi gruppi New Wave ad avere successo da Albione in Inghilterra. E il tour di promozione dell'album Plastic Letters ha un successo stellare, l'entusiasmo dei fan è straordinario, si inizia a parlare di Debbie Harry come della Marilyn Monroe del rock. Addirittura, lo dicevamo prima, parte l'ipotesi un po' leggendaria che azzarda che Debbie sia stata adottata proprio perché era la figlia segreta di Marilyn Monroe. È stato incredibile, sorprendente il successo. Onestamente non avevo idea di come gestire una cosa del genere, ma ovviamente era stupendo. Una cosa che chiunque lavori nella musica o nello spettacolo vuole avere. È un sogno che si realizza. Il fatto di Marilyn è stato un errore. Mi sento legata a lei spiritualmente, ma non ho mai pensato che fosse la mia madre naturale. È un fatto che è cresciuto per conto suo. Io avevo solo voluto fare un omaggio alla sua bellezza, al suo essere bionda. Her blondness, you know. Beh, probabilmente questa è una trovata pubblicitaria, ma insomma le analogie tra le due sono molte, mix di sensualità, di innocenza, professionalità. Lei in più canta magnificamente, è anche autrice delle canzoni, insomma è un'artista completa. Poi arriva il terzo album della band, Parallel Lines. Esce nel settembre del 78, diventa un successo mondiale, diventa l'album più popolare, più venduto nella storia del gruppo, anche perché contiene un brano che come singolo raggiunge la prima posizione nelle classifiche sia degli Stati Uniti che della Gran Bretagna e un po' in tutto il mondo, e il brano è Heart of Glass. Tutti quelli della mia generazione l'hanno cantata, l'hanno ballata. Tra l'altro era un brano che a un certo punto diventava in 7/8 e noi ballavamo e non ce ne accorgevamo, ballavamo su un tempo dispare. Questo per dire insomma quanto fossero geniali come band i Blonde. E loro con questo album raggiungono un successo che supera tutte le altre formazioni del circuito punk newyorkese. Il lavoro successivo non ha il successo dell'album precedente, quasi irripetibile, però comunque si assesta con ottime posizioni nelle classifiche, diventa comunque disco di platino negli Stati Uniti ed ha un altro primato, che è uno dei primi album al mondo ad avere la versione video venduta in VHS, perché i fan, i Blondie, li vogliono ascoltare, ma se li vedono è anche meglio. E poi c'è una canzone che si chiama Atom, che 20 anni dopo vivrà una seconda stagione perché verrà scelta dalla Coca-Cola come sigla per lo spot in concomitanza con i mondiali di calcio, avrà un nuovo straordinario successo. Il successo dei Blondie è sempre più stellare, naturalmente è un successo soprattutto personale di Debbie Harry, in fondo lo stesso nome Blondie sembra essere un soprannome della ragazza, che è considerata a tutti gli effetti un sex symbol. Ascoltate cosa dichiara il vincitore, diciamo così, Chris Stein, a un intervistatore del 1980. Come si trova a vivere con il sex symbol degli anni 80? I couldn't be happier. It's great. Non potrei essere più felice. È bellissimo. Una cosa bellissima. È una cosa anche divertente, perché io ho una relazione con Debbie da tanto tempo. Ma come uomo posso dire che è fantastico. E nell'80 c'è un altro anno fondamentale nella carriera dei Blondie e particolarmente di Debbie Harry, perché viene contattata personalmente dal grande Giorgio Moroder, produttore e compositore italiano specializzato in colonne sonore, Flash Dance, Top Gun, Fuga di Mezzanotte, per le quali ha vinto l'Oscar e poi ha prodotto grandissimi artisti da Donna Summer in avanti. Insomma, lui contatta Debbie Harry per scrivere una canzone con lei, tema principale di un film che entrerà nella storia del cinema, American Gigolo, il film che trasforma Richard Gere in un sex symbol indiscusso. E forse tutto questo avviene anche un po' grazie alla colonna sonora e a questa canzone, Call Me. Il falco e il gabbiano. Un sex symbol, un'icona di stile, una delle performer più rispettate nel mondo della musica contemporanea. La nostra protagonista di oggi è la straordinaria front woman dei Blondie, colei che incarna il mito della donna bionda, la Marilyn Monroe dolce e fatale, che ha rappresentato un modo di essere e di porsi copiato per diverse decadi a partire dagli anni 70. Debbie Harry, la imitatissima portavoce di uno dei gruppi new wave di maggior spicco, più influenti nel panorama musicale degli ultimi 40 anni, autrice di canzoni che hanno fatto epoca, un mito che nonostante oggi lei abbia superato i 70 anni viene definito senza età e fuori dal tempo. Abbiamo ripercorso le tappe della prima parte della carriera di Debbie Harry, la partnership con il chitarrista Chris Stein, suo compagno intanto artistico ma anche per 15 anni nella vita, e i due rimangono amici legati fino a oggi. E poi abbiamo raccontato dell'evolversi della band e dei loro grandi successi. Arriviamo al dicembre dell'80, esce un altro album storico, Auto American, brani molto diversi, molta sperimentazione, ma ancora due canzoni che diventano numeri uno in America e in Inghilterra. La prima è The Tide is High, è una cover di un brano del 67 portata al successo da loro 13 anni dopo nell'80. Ma in Auto American è presente un'altra canzone con la quale i Blondie compiono un passo in avanti grandioso sotto il profilo musicale, se consideriamo gli anni in cui eravamo, perché il brano si chiama Rapture ed è il primo pezzo rap di un gruppo non afroamericano a raggiungere le classifiche mondiali. Tra l'altro un brano originale, non un sample come si usava all'inizio dell'era hip hop. Ascoltate cosa dice in proposito proprio lei, Debbie Harry. Credo che la mia canzone che preferisco a diversi livelli sia Rapture. È stata una grande innovazione, una canzone di rottura per noi e anche nel mondo della musica di quegli anni, quindi per noi fu molto significativa. Ne sono molto orgogliosa, perché è la prima canzone rap ad avere una sua musica originale. A quel tempo tutti i rap erano dei sample. All raps were scratching samples. Il grande successo dei Blondie si sovrappone a quello personale di Debbie Harry, che viene richiesta anche dal cinema. Intanto perché è molto bella e sensuale, però è anche brava come attrice. All'inizio le offrono ruoli legati alla sua professione, come nel film Roadie, dove canta una versione molto energica di Ring of Fire di Johnny Cash. Poi vedremo che avrà anche dei ruoli differenti da quello di cantante. E poi c'è un metro per misurare la popolarità molto importante in America, perché tu non sei una superstar, almeno in quegli anni, se non ti invitano al Muppet Show. Lei canta in coppia con la rana Kermit il suo cavallo di battaglia, quello della rana, la canzone Rainbow Connection. E sì, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, un personaggio può dirsi arrivato al top solo se partecipa al Muppet Show. Sicuramente le dà molta soddisfazione, più che il duetto con la rana Kermit, una richiesta straordinaria che le arriva da Andy Warhol, perché il grande artista desidera farle un ritratto. L'ho trovato una persona molto generosa, interessato a collaborare con i giovani artisti. Era molto avanti, curioso. Ecco, aveva una grande curiosità di fondo e amava la società. Gli piaceva uscire e incontrare la gente. E nell'81 Debbie Harry si cimenta in qualcosa di nuovo per lei, realizza un album da solista, Cuckoo, un album particolare con una copertina che viene contestata per la crudezza e il suo bellissimo volto trafitto da una serie di grossi spilloni, un'opera di Hans Rudi Geiger, l'autore della creatura di Alien. L'anno dopo, nell'82, un ruolo cinematografico importante, uno dei pochi come vera protagonista, recita la parte della conduttrice radiofonica Nikki Brand nel film di fantascienza di Cronenberg, Videodrome. Lascia che ti aiuti, cara, è il mio lavoro. Non si tratta di me, ma di mia sorella. Non è tua sorella, sei tu invece. Non è così? No. Non è per questo che mi hai chiamato. Tu cerchi aiuto, hai bisogno di aiuto. Stai quasi impazzendo, ma sento che ti dà sollievo parlare con me. Vuoi chiamare il nostro psicocentro? Puoi trovare comprensione, amore e il consiglio giusto anche. Sappiamo aiutare quelli che soffrono. E tu soffri, cara. Lo sento che soffri. Farò come dici tu. Grazie, Nicky. Interrompiamo la bella voce di Nicky Brand. Il suo programma Parlane con me per trasmettere il bollettino meteorologico. E dopo un anno di fermo della band, nell'82 esce un altro album dei Blondie the Hunter. Non è un successo particolare, insomma loro sono a una svolta. L'eccessiva attenzione mediatica nei confronti di Debbie Harry mette in secondo piano gli altri componenti del gruppo, e poi arriva un fatto per certi versi tragico che cambia le sorti di tutti. Chris Stane si ammala, contrae il pemphigus vulgaris, che è una malattia autoimmune che lo obbliga a un ricovero forzato per molti mesi. I Blondie annunciano lo scioglimento, la stampa ci ricama, dice che Chris è spacciato, altri scrivono che i componenti sono arrivati ai ferri corti, si parla di vena creativa esaurita. Debbie Harry racconta così la sua versione, che poi è sicuramente la verità. No, è stata un'esagerazione, si è trattato di una implosione del tutto. La nostra casa discografica ha chiuso, il manager se n'è andato, Chris si è ammalato e tutto si è sfasciato in una volta. E lei lascia per il momento la scena musicale, rimane a fianco di Chris Stane per aiutarlo nel lungo periodo di guarigione. Lui rimane 2 anni in ospedale, lei spesso passa le nottate su un asdraio al suo fianco. Poi finalmente le sue condizioni migliorano, siamo nell'86 intanto, e la coppia collabora nuovamente a un album di Debbie Harry come solista, Rock Bird, dal quale viene anche estratto un singolo che arriva subito in cima alle classifiche in Inghilterra, French Kissing in the USA. E Debbie Harry si dà ancora al cinema, ha una parte importante in Spray del 88, un film con Sonny Bono che in Italia si intitola Grasso e Bello, ma insomma in Italia non abbiamo avuto mai dei grandi titoli sui film americani. Poi c'è un altro album come solista, Deaf, Dumb and Blonde, con il successo I Want That Man, poi duetta con Iggy Pop e nel 90 recita nel film horror I Delitti del Gatto Nero. Insomma, a tutt'oggi ha partecipato a una 50 di film. E poi nel 90, dopo 8 anni, i Blondie hanno una prima reunion non ufficiale per fare un tour con i Tonton Club e con i Ramones, e in quell'occasione escono varie compilation che hanno un successo tale da indurre i Blondie a riunirsi ufficialmente con una formazione diversa. Al basso subentra Leg Fox e alla chitarra Paul Carbonara, però il loro danno vita a un nuovo momento di successi grandiosi, soprattutto con l'album No Exit del 99, che contiene uno dei loro pezzi più famosi di successo di tutti i tempi, Alzatevi pure e ballate, Maria. E il singolo Maria raggiunge la vetta delle classifiche mondiali, un altro colpo dalla spaventose dai Blondie, il primato di aver avuto singoli in vetta alle top 10 negli anni 70, 80 e 90. Al pelo, perché eravamo nel 99, e da Debbie Harry un altro primato, l'artista diciamo più adulta, l'artista donna più adulta che diventa numero uno in classifica. Eh sì, perché lei nel 99, anche se non sembra, ha 54 anni. Nel 2006 i Blondie entrano nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della loro lunghissima carriera e della straordinaria influenza che la band ha avuto e ha tuttora nella musica contemporanea, e non si fermano. Nel 2011 pubblicano un altro bellissimo album, Panic of Girls, che contiene ancora un brano di grande successo, Mother. Nel 2014 esce il loro ultimo lavoro, 10° album dei Blondie, Ghosts of Download, che contiene sia brani nuovi che le loro più grandi hit. C'è una dichiarazione che Debbie Harry ha rilasciato recentemente che sembra racchiudere tutta la sua profondità di donna e di autrice, dimostrando che lei è un personaggio vero e non costruito. Uno dei miei criteri di valutazione quando componevo una canzone era che se io mi sentivo vagamente imbarazzata, allora era una buona canzone. Era il sentimento giusto. Perché se è così, vuol dire che è vera, che ci ho messo dentro del vero. Chiaramente tu non vuoi che quello che pensi sia così evidente. Di solito cerchiamo tutti di mascherarci un po', di avere una immagine, una barriera che ci difende dagli altri. Ma se tu la verità la scrivi, la gente questo lo sente. If you, you know, do that in writing, you know, I think people can sense that, you know. E questa è una grande verità, e che peraltro dimostra che ci sono anche in giro molte donne belle e intelligenti. Qui stiamo parlando di una gran donna che ha saputo dare tanti colpi d'ala che sono diventati successi e soprattutto una strada tracciata per le altre che l'hanno imitata. Ci sono storie di persone che hanno saputo volare in alto, che hanno fatto cose che hanno lasciato il segno, magari che dopo essere cadute sono anche risalite, e ognuno di noi può vivere in questo modo. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite, scrivete al nostro sito www.radio24.it oppure al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei Facebook, Twitter e social miei della trasmissione. Insomma, lo sapete che se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.